Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Oh, caro chef, come andiamo? È iniziato luglio. Luglio col bene che ti voglio. Luglio di solito è un luglio un po' diverso, no? Perché si lavora, perché c'è il calcio, c'è il campionato, per quanto mi riguarda, ma soprattutto c'è tanta gente che continua ad andare al lavoro. Insomma, le vacanze sono lontane, però insomma, dai, che facciamo? Sì. Luglio, poi, ascolta, poi un ingrediente che ti ricordi luglio, un caldo così, cosa può essere? A te piace tanto? Ma il pesce. Okay. Il pesce crudo, mi piace moltissimo. Ovviamente sì, il pesce, l'estate, anche la frutta, sai che io non sono un grande fruttista, ma devo dire che d'estate mangio un po' di frutta le grandi insalate, oggi... la pasta fredda che insomma d'inverno non ha quasi motivo di esistere, e invece in questo periodo ha un suo perché, no? Un'insalata di pasta, un'insalata di riso. E qui oggi parleremo delle Marche, quindi oggi quattro ricette: Marche. Piconi fritti, stracciatella marchigiana, poi triglie con pane, gnocchi dolci, insomma un po' di cose tra dolce e salato delle Marche. Nostro primo ospite, un caro amico? Sì, un caro amico, un grande atleta, che è Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto, nato a Civitanova Marche. Come stai? Ciao ragazzi, ciao Gianmarco. Ciao. Benone, voi tutto a posto? Tutto bene, com'è questa storia del peso? Che insomma, il peso. Sì, è una battaglia persa dall'inizio per un amante del cibo, e soprattutto un cittadino italiano, è veramente una sfida ardua. Perché tu hai. Facciamo outing. Tu hai, se non ho letto male, hai ammesso di essere 5-6 kg sopra, ma del resto, insomma, il lockdown. Poi, è stato per tutti. C'è stato per tutti. Poi per un atleta il lockdown significa proprio interrompere l'attività agonistica. E iniziare a mangiare. A parte tutto, sì, sicuramente il fatto di aver rallentato dal punto di vista atletico e poi essere stati chiusi dentro casa ha aiutato a sfogare i nostri piaceri nel cibo, poi per un amante come me del cibo. Buona forchetta e buon intenditore, gourmet, Gianmarco, io mi ricordo. Non per niente sono venuto parecchie volte anche da te, Davide, che diciamo che di gourmet se ne è parecchio. Sì, diciamo che obiettivamente è stato un periodo un pochino per noi anche, tra virgolette, di svago dopo la cancellazione, il fatto che sono state posticipate le Olimpiadi, un attimo abbiamo rallentato anche con quelle diete ferre che teniamo durante l'anno. Senti, la tua Madeleine qual è? Qualche giorno fa Roberto Mancini, ho intervistato per Vanity sui suoi ricordi più dolci legati alle Marche, mi ha parlato dei vinci sgrassi che gli cucina la mamma, no? Non so se è la stessa cosa o se è il ciauscolo o se è la stessa identica cosa. Io il mio piatto preferito sono le lasagne vinci sgrassi di nonna, quindi per lui è la mamma, per me è la nonna, più o meno l'età sarà simile. Sì. Ma i vinci sgrassi, chef, come, in che cosa sono diversi dalle lasagne ormai? Sono un'interpretazione marchigiana di quel grande classico che è la pasta ripiena. Ecco, io la vedrei più che altro come un piatto unico, perché quando parli di un carboidrato. Vabbè, ma adesso non è che dobbiamo sempre precisare. È un piatto unico dal nome qualcuno li fa un po' grassi, qualcun altro un po' più moderno, un po' più leggeri, però quando metti l'abbinamento della pasta e della carne, voglio dire, c'è sempre questa cosa del piatto unico, che secondo me fa molto bene, perché magari anziché mangiarne 100 grammi ne mangi 120, Pier? 130? Sì, 140? Sì. È come il salto in alto, è come il salto in alto. Quindi no, 235. Senti, ma Gianmarco, il tuo trucco della barba, metà fatta e metà no, perché poi ti devo dire una chicca che è successa in cucina, in una delle grandi cucine dove ho lavorato io qualche anno fa. Qual è la storia? Ce la racconti velocemente? Beh, è un trucco a tutti gli effetti, visto che mi dà tipo i superpoteri quando sono in gara. È nata la storia della metà barba ormai tanti anni fa, 9 anni fa, i campioni italiani nel 2011, che mi presentavo come favorito, ma avevo paura di deludere le aspettative perché arrivavo da un periodo di problemi fisici. Quindi, diciamo, un po' per cercare di tranquillizzarmi, di fare una stupidaggine che mi rendesse comunque tranquillo in gara e affrontarla come sempre con spensieratezza, ho fatto questo gesto di tagliarmi la barba a metà, che poi mi ha portato una fortuna enorme in quella gara, e da lì purtroppo da buon sportivo e scaramantico ad ogni gara, prima della gara, l'ultima cosa che faccio prima di scendere in pedana. Senti, c'è stato un grande cuoco che lavorava con me, che un bel giorno, insomma, in cucina, nelle cucine dove io ho lavorato, regole ferre e tutto, veniva in cucina ogni 2 giorni, non faceva la barba, per cui un po' barbato così. E allora un giorno lo chef lo prende e gli dice: guarda Cyril, domani, un francese, domani se non vieni con la barba fatta sei licenziato. Allora il giorno dopo si presenta, allora io sono alla sua destra, per cui dico: ah, che bravo, ha fatto la barba. Si presenta davanti allo chef sulla faccia lato destro, per cui gli dice: complimenti, bravo Cyril, grazie di aver fatto la barba. A un certo punto si gira, c'era l'altra parte della barba non fatta, licenziato, fired in tronco, buttato fuori subito, neanche passato dal via. Per cui vedi che si ripete anche in cucina questa cosa. Ma ci sono chef con la barba? Sì, sì, chef con la barba, sì, assolutamente. Vabbè, in Italia ce n'è un bel po', Senti Gianmarco, ma quindi la ricetta dei Vinci Sgrassi ce la vuoi? Li sai cucinare? Forse no. No, io sono molto bravo a mangiarli. Però... quello siamo. Siamo tutti competitivi. Esatto, possiamo dedicargli un'altra. I picconi. Per far capire a chi non è nato a Macerata o a Civitanova, cioè è un sugo bello, bello corposo, no? Beh, sì, sicuramente i Vinci Sgrassi, come ha detto Davide, sono un piatto in cui ci sono, cioè, di tutto, cioè dei carboidrati, proteine e grassi in grande quantità, quindi sicuramente non è un piatto leggero, però fa stare talmente tanto bene che ci pensi poi il giorno dopo al peso in più che ti porta. Assolutamente, anche perché appunto poi se lo fai alla maniera di Oldani, cioè come piatto unico, alla fine riesci anche a recuperare. No, magari Pier, io leverei la pancetta, leverei la polpa di maiale, metterei magari una polpa di una carne bianca, potrebbe essere, con gli stessi, insomma, la sfoglia di pasta all'uovo, magari la farei senza tuorlo, la farei solo con acqua e farina, quindi una sfoglia di pasta morta, come si dice in gergo, e poi magari non metterei la frattaglia di pollo, ma utilizzerei solo appunto la carne bianca di pollo, insomma, si può alleggerire anche il Vinci Sgrassi. La tagliata degli sportivi questa. Ecco, bravo, però con molto gusto, dai, qualche erba profumata, qualche spezia, secondo me si può fare il Vinci Sgrassi nuovo 2020, insomma. Assolutamente. Altre cose, vabbè, per esempio il ciauscolo è una cosa unica, lo possiamo dire, cioè è un salume straordinario, un salame spalmabile con un gusto particolarissimo, non so se sei un addicted. Ma sì, guarda, ti dico, io fai veramente fatica, farai a trovare un qualcosa che non mi piace, quindi col ciauscolo, lasagne, qualsiasi cosa ti viene in mente della tradizione marchigiana, ne sono un fanatico, ma perché sono un fanatico del cibo in generale, dico, veramente difficile trovare qualcosa che non mi piaccia, quindi sì, ciauscolo è un qualcosa che ci contraddistingue anche qui. Poi adesso che passiamo con il caldo, gli aperitivi fatti al mare, vista mare, con un bel bicchiere di vino bianco in spiaggia. Anche perché c'è tanto, tanto pesce nella cucina marchigiana. Fra poco avremo il mitico Moreno Cedroni, e quindi andremo alla Madonnina del Pescatore. Lo so, perché insomma lì sappiamo che tutta l'arte ittica e del cucinare il pesce è veramente straordinaria. Ci fermiamo solo per un attimo, poi voglio capire da Oldani le sue quattro ricette di oggi. Fra un attimo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, siamo con Gianmarco Tamberi, straordinario campione di salto in alto, nato a Civitanova Marche, un posto che ho visitato recentemente per le opere di Adalberto Libera, non so se lo conosci, insomma, è molto interessante dal punto di vista dell'architettura. Sì. E insomma, Oldani, Tamberi c'ha questo problema che ha mangiato un po' durante il lockdown e dovrà un po' smaltire. Appena gli hanno detto: guarda, i giochi olimpici sono rimandati, devi stare a casa, si è abbandonato. Come si è messi con i giochi? L'anno prossimo ero anch'io nel team sempre con Sport and Food Ambassador per Casa Italia. Noi infatti Davide ci siamo conosciuti, io Davide arrivo nel 2016, io avevo le stampelle, però a maggior ragione ho passato molto del mio tempo davanti alla cucina di Davide e ho approfittato delle sue prelibatezze. In teoria speriamo, insomma, hanno confermato che l'Olimpiadi sarà fatta anno prossimo nello stesso identico periodo di quest'anno, anticipate di un giorno se non sbaglio per questioni di giorni della settimana, ecco. Ovviamente sperando, e soprattutto per la salute di tutti, che questo male che ci ha attaccato in questo anno non si ripresenterà l'anno prossimo. Però speriamo che questa ipotesi non esista, ecco. Assolutamente. Senti, ma invece prima delle gare, com'è il regime alimentare? Perché insomma ci hai confessato, siamo dello stesso partito, che ti piace mangiare, quindi un po' di rinunce ci sono. Immagino che insomma, come funziona la dieta? Tu hai una dieta settimanale durante tutto il periodo agonistico, come ti gestisci? Allora, il mio rapporto con il cibo potremmo parlarne per un paio di giorni, credo. Ti parto dal fatto che io nel post season, ovvero appena smetto la mia stagione, per un mese prendo, nei primi 20 giorni prendo circa 10 kg, per farti capire, e poi ci metto altri 6 mesi per perderli, quindi questo è un po' il mio rapporto con il cibo, perché mi piace talmente tanto che appena mi fermo con le gare inizio a girare l'Italia per mangiare ovunque quello che offre ogni regione. Per quanto riguarda il pre-gara, in realtà per me il pre-gara inizia mesi prima, perché l'avvicinamento alla gara non può essere, anche dal punto di vista nutrizionale, un solo giorno, certo, di dieta, ma è proprio un periodo. Poi faccio uno sport talmente particolare in cui il peso è davvero importante, perché superare la gravità, più si è leggeri, più è facile. Quindi diciamo che è contestualizzato proprio durante tutto l'anno la mia dieta, e nel pre-gara fondamentalmente prediligo carboidrati, con quasi sempre quando mangio pasta la mangio in bianco, proprio per evitare di aggiungere calorie al pasto. Se è la mattina, magari mangio qualcosina in più a colazione per avere energia in gara, però non faccio uno sport di endurance in cui ho bisogno di quantità industriali. No, certo, no, ma poi soprattutto hai detto questa cosa, francamente non ci pensavo, ma che invece è assolutamente logica, direi quasi fisica. Cioè, chiaramente voi sfidate la forza di gravità, e sfidando la forza di gravità, insomma, anche due etti in più o due etti in meno possono fare una differenza decisiva, perché si parla veramente di millimetri più che di centimetri, no? Tu salti, sì, 2,39 metri è il tuo record, no? Sì, no, hai detto benissimo. Infatti adesso, per come mi sono espresso, sembra quasi che io nel post season sia un ciccione, in realtà è che sono anoressico durante la stagione, cioè io sono alto 1,92 e nel periodo clou dell'anno peso 75 kg, quindi è poca roba. Ma anch'io c'è stato un periodo che pesava, guarda, 75 kg io credo a 13 anni, ma non sto scherzando, veramente. È un po' come è un peso che... Piero, è un po' come il ciclismo, no Gianmarco, che io mi sono accorto in bicicletta quando ho cominciato a perdere qualche chilo qualche anno fa, andavi veramente di più, quindi il la peso era più facile. Sì, è molto molto più facile. Quindi obiettivi di salto, così se si può dire. Obiettivi di salto, allora, ho gareggiato l'altro ieri, ho saltato 2,30 m, quindi sono molto contento per questo momento della stagione, insomma, come tutti siamo rientrati da un periodo difficile, riuscire a saltare subito una misura del genere mi dà molta fiducia. Adesso ho un'altra gara sabato questo a Rieti, che sarà l'ultima gara del periodo post-Covid, chiamiamolo così, e poi ad agosto inizieremo con delle gare internazionali, se Dio vuole ritorneremo a fare delle attività di un certo livello. Un po' di normalità che ci vuole in questa situazione assolutamente, assolutamente chiara e assolutamente, insomma, speriamo un po' più serena rispetto a quello che abbiamo passato qualche tempo fa. Grazie Giamma, grazie, ci sentiamo presto. Ti aspetto. Ascoltaci, perché adesso prima di andare da Moreno Cedroni io partirei con la prima delle quattro ricette dello chef Oldani. Come vuoi partire, chef? Ma è molto semplice: picconi fritti con olive, maggiorana e purè di mirtillo. Che dobbiamo... sono questi picconi? Che picconi è una pasta, adesso te la racconto. Infatti mi piace. Però dovremmo dire una cosa, un po' del nostro libro si può dire, poi ci pensi tu a raccontarlo le tue ricette, ricordiamo le dove nostre possiamo... le nostre, cioè, beh, le tue ricette nel senso che è un po' più credibile, insomma le mie ricette sono pasta in bianco con dell'olio sopra, buonissimo. No, le tue ricette dove lo troviamo? Però no, aspetta, dillo. Ricette va bene sulla pratica, sul racconto eccetera, però c'è anche quella parte raccontata del viaggio vissuto da Pierre che è fantastico. Sì Devo dire che sei un artista, sei un presentatore, artista. Sei un DJ, sei un sex symbol. Un sex symbol, no, un no, gourmet, no. un gran gourmet, il classico gran gourmet. Comunque, no, senti, le dico allora, nelle librerie, però. Ma fai con i picconi, vai. E dopo andiamo su trovate. Good Morning Italia e Mangia come parli, il nostro Perfetto. Libro. Okay. Ottimo. Allora, per quattro persone, per la pasta, una cosa semplice: 400 grammi di farina di grano tenero, 3 centilitri di acqua tiepida, 200 grammi di albume d'uovo e 20 grammi di tuorlo d'uovo, un pizzico di sale. Impastiamo per bene fino a ottenere un impasto molto omogeneo, liscio, e lo lasciamo riposare almeno una ventina di minuti coperto da un panno umido, in vecchia maniera. Poi cosa facciamo? Lo prendiamo, lo tiriamo con l'aiuto di un mattarello possibilmente, che ci dà un po' di energia. Facciamo con un copapasta dei piccoli cerchi di più o meno 3 mm di spessore e 5 di diametro. In questi cerchi andremo ad adagiare un impasto che avremo preparato a parte, composto da 200 g di ricotta di pecora, 40 g di pecorino molto stagionato, grattugiato fine, 50 g di pasta di olive verdi schiacciate, 20 g di purea o marmellata di mirtilli, anche lei passata a setaccio, quindi una piccola crema di mirtillo che dà la dolcezza giusta, e poi un po' di foglie di maggiorana o origano, però fresco, non quello secco. Per cui una volta che abbiamo messo questo impasto all'interno di questo cerchio di pasta, come dicevo prima, di questa pasta di uovo, albume e tuorlo, chiudiamo il nostro cerchio e poi cosa facciamo? Lo possiamo o cucinare al forno a 180 gradi oppure friggerlo in olio extravergine di oliva a 160 gradi, più o meno per un paio di minuti. Poi lo togliamo dal nostro olio, dalla frittura, lo asciughiamo per bene, poi se vogliamo lo cospargiamo con un po' di pepe nero macinato all'ultimo momento. Beh, mi sembra una magia, così come è magico il personaggio che stiamo per incontrare, che è Moreno Cedroni, è una delle icone più lucenti, più luccicanti, più buone essenzialmente della nostra gastronomia. Allora Moreno, ciao, benvenuto, ciao. Benvenuto a Mangia Come Parli, ambasciatore del gusto, 2 stelle Michelin, la Madonnina del Pescatore. C'è qualcuno in Italia che non conosce la Madonnina del Pescatore? Cioè tu hai incontrato uno che non ti conosce? No Moreno, dimmi, magari c'è uno che non conosce la Madonnina del Pescatore. Ma guarda, non è buon segno se ti conosco, perché vuol dire che sono tanti anni che sei sulla piazza, sulla strada, quindi ho aperto 36 anni fa, pensa, e quindi ne ho viste, ecco, un paio di generazioni che venivano le prime volte da piccolini, adesso, ma sai, ti ricordi di me, adesso li vedi grandi, alti, uomini fatti, ti ricordano, venivo qui che ero piccolino tanti anni fa. Io so che la tua idea di cucina è ogni anno offrire un tema che tu assorbi, studi, senti, vedi, guardi quando fai viaggi. Quest'anno, sì. Dopo il lockdown, come ti presenterai? Dopo il viaggio del lockdown. Allora, il clandestino c'era già il tema in azione prima che ci fermassimo, e il sushi quest'anno è divino, ispirato alle divinità greche, quindi c'è stato questo studio delle varie divinità, dei loro pregi, dei loro difetti, è nato un menù incredibile dove se la giocano Poseidone e Afrodite, se la giocano proprio uno con l'orata cruda e l'altro con la capa santa, e però Fantastico. C'è anche un Efesto che è il dio del fuoco con la ricciola affumicata che gli sta molto vicino, e quindi direi che abbiamo iniziato bene, cioè, sai, la curiosità di provare sempre il tema nuovo, il menù nuovo, e quindi che poi si conclude anche con le muse ispiratrici, abbiamo fatto delle maschere, di una di gelato e una di una gommosa, e quindi c'è anche un gran finale, ecco, in questo. E invece questo Madonnina, anche il tema lo tieni coerente con tutte e tre, poi lo splitti? No, questo è riferito al sushi, perché se no poteva sembrare qualche anno fa che io avessi fatto il verso al sushi giapponese togliendo l'H, quindi per far sì che non si sentisse questo verso ogni anno rinnovo il tema, quindi è diventato un po' uno studio che ogni anno si rinnova. Perché Pier, se vuoi raccontare un attimo ai nostri ascoltatori il sushi tuo, insomma, quando è nato, come è nato e perché, velocemente, insomma, un piccolo riassunto. È nato nel 2000 con l'apertura del clandestino a Porto Novo, io appassionato di crudo e non amante di quello che succedeva in Italia con le fettine di pesce bagnate nell'aceto e nel limone, e amante a tratti ecco, volevo farti dire questo e amante a tratti dei bocconcini da passare nella salsa di soia, ho fatto un po' una cosa che facciamo nel cotto, cioè ad ogni pesce, ad ogni polpo ho trovato una sua ricetta, perché non era possibile che con il rombo, con la stiva stessero bene le stesse salse, e quindi ho creato una ricetta, ecco, quindi lo studio di ogni anno è creare ricette diverse da abbinare alle differenti polpe, e ne è uscito un gioco interessante, un tema interessante che soprattutto ogni anno si rinnova. Certo. Con pasta, giusto, anche pasta o qualcosa del genere metti? Allora, di pasta quest'anno c'è per la dea appunto del grano, quindi c'è l'orzo perlato. L'anno scorso c'era uno spinosino, una pasta di Campofilone, quindi sì, una ne entra, ecco. Delicatamente, non ci sono troppe paste al clandestino. Allora, ragazzi, aspetta perché dobbiamo fermarci un attimo, ma ripartiamo da qui, anche perché io oggi vorrei fare SOS Moreno, ve lo preannuncio. Bravo, perché fantastico. Noi facciamo SOS Soldani sempre sul pesce, perché il pesce sai che è un must, no? È una delle cose più buone, ovviamente, che la natura ci offre, ma va saputo cucinare. Insomma, ti voglio sfruttare per delle cose anche un po' pratiche, fra un attimo. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, puntata dedicata alle Marche, con noi ovviamente lo chef Oldani e Moreno Cedroni, che è lo chef del Due Stelle, la Madonnina del Pescatore. Io vorrei fare proprio SOS Moreno, nel senso che, insomma, tu sei, diciamo, l'istituzione nel saper cucinare il pesce. Ovviamente molto dipende dal prodotto, dagli ingredienti, che devono essere di grandissima qualità, ma c'è qualcosa, proprio anche gli errori da evitare, le cose che ti senti... Facciamo un po' di didattica sulle cose da non sbagliare per cucinare il pesce. I 2-3 consigli fondamentali da dare ai nostri amici da casa. Ma guarda, quindi parliamo di cucinato. E uno direi segreto di Pulcinella di fare cotture brevi, ecco, questo sia che sia il pesce sfilettato sia che sia intero, quindi di preparare tutto l'intingolo prima, il sughetto prima, e di mettere il pesce all'ultimo momento e di coprire col coperchio, quindi si forma il vapore, pochi minuti di cottura e il pesce è perfetto. Per quello che riguarda un po' il crudo, è molto importante il taglio, ecco, tagliare le fibre, così ha una texture più tenera, ecco, il taglio è determinante sia per questo, ma anche per una bella presentazione, perché sai, parliamo sempre di piattamento, poi certo, dobbiamo anche farlo per bene. Quindi cotture brevi, ma consiglio anche, adesso sta andando molto l'olio cottura da qualche anno, quindi un olio che arriva a 70 gradi, quindi queste polpe, soprattutto quelle collagenose, metti il merluzzo, metti il baccalà, no? E vanno in quest'olio a 70 gradi fino a che raggiungono i 50 al cuore, quindi quella è la temperatura perfetta di degustazione, il pesce si scaglia, non abbiamo fatto fritti, non abbiamo fatto niente di pesante e mangiamo delle polpe veramente squisite. Invece Moreno, un altro SOS Cedroni, qual è la parte del pesce più strana che hai mangiato o cucinato? Ma la parte più strana, senz'altro, guarda, nel tonno è la buzzonaglia, quella parte da quel cuscinetto che sbatte sempre nella spina, quindi è un po' sanguinolenta, è ferrosa e quindi va trattata un po'. Ho visto, sai, le ricette come il fegato alla veneziana, quindi tanta cipolla, componenti dolci e poi alla fine ne esce un sapore sicuramente piacevole. Molto buona invece la trippa di coda di rospo, ti devo dire. Ecco, questa raccontacela un attimo, perché è una cosa che molti scartano, in effetti. Ma sì, la un quinto quarto marinaro, diciamo. Ma sì, lo stomaco, la vescica natatoria che viene buttata via molte volte, invece se la prendi, la apri, poi la pulisci un po', la lessi in acqua con un po' di carota, sedano e cipolla, e poi dopo la ricetta marchigiana è di tagliarla a fettine e di passarla in un soffritto di sedano, carota e cipolla, dove ci va il pomodoro e dove ci va tanto finocchio selvatico, grattata di parmigiano alla fine e grattata di buccia di limone. E lì i sogni, è una poesia. Senti, invece l'ultima cosa, poi ti lasciamo al tuo sabato mattina, un salume di pesce che stai facendo, provando, oppure che hai già in carta? Ah, guarda, adesso quindi c'è stato l'inizio del pezzo intero del pesce che veniva salato ed asciugato, adesso siamo passati proprio a fare un mix di polpe, a metterlo poi in un budello sintetico, quindi a fare proprio un vero e proprio salame di pesce, quindi con un po' di peperoncino, con un po' di spezie, e ti devo dire che i primi risultati sono molto buoni, li taglio a fettine e sono gradevoli, ecco, come appetizer, come una piccola entrata. Grazie. Beh, Moreno, fantastico. Allora io ti ringrazio, insomma, e poi ti ringrazio anche da parte degli ambasciatori del gusto, perché ti ho visto molto attivo, insomma, se vuoi lanciare un'ultima cosa per quello che è il dopo pandemia, per quella che è l'associazione dei nostri ambasciatori del gusto, approfittane, se no ci vediamo al clandestino. Sì, quello vi aspetto al clandestino, ma un ringraziamento agli ambasciatori del gusto, perché in questi mesi proprio hanno fatto tanto per la nostra categoria e devo dire che finalmente qualcosa si sta muovendo, ha fatto tante cose in rete, ha unito tante associazioni e quindi un applauso alla rete, già che parliamo di pesce, alla nostra rete che abbiamo fatto in tutta Italia con gli ambasciatori. Grazie. Senti, Moreno, io mi prenoto per tra una catalana e una panzarella di crostacei, sedano, cipolle agrodolce e maionese di pomodori verdi. È un crescendo di parole che mi arrapano, si può dire, una più dell'altra, proprio dal primo tra fino al verde dei pomodori. Vabbè. Ciao. Forza, ciao, forza, un abbraccio, forza. Viva il mare, ovviamente, viva il pesce. Devo dire che insomma la cucina di mare, poi siamo a inizio di luglio, in questo momento è veramente un bisogno enorme, un bisogno proprio quasi fisico, così come è un bisogno fisico la nostra seconda ricetta, che è una stracciatella marchigiana con lupini di mare. Prego, vai, con chef. Lupini, tu li conosci i lupini? Certo che non sono lupini. Piccoli lupi, Pier. No, non sono piccoli, okay. Lupi, ovviamente tu li privi della conchiglia, perché so la tua filosofia, no? Esatto, immagino. Naturalmente, puliti, perché c'è sempre una prelavorazione del piatto. Quando, secondo me, vuoi mangiare bene, devi avere tutto nel piatto edibile. Per cui cominciamo less is more, cominciamo a levare tutta quella parte di Mies van der Rohe. Vabbè, architettura, così. Sei grande. Allora, 50 grammi di lupini puliti, il che bisogna lavorare un bel po' prima, magari un paio d'ore prima ci si pulisce, mette lì, si aprono e si puliscono anche da magari l'ipotetica terra che si può trovare, la sabbia, scusate, che si può trovare. Quindi puliamo questi 50 grammi di lupini che avremo aperto naturalmente al vapore. Poi cosa facciamo per la stracciatella? È molto semplice, poi questi lupini li conserviamo a parte, magari con un velo di olio, e se vogliamo due o tre foglioline di basilico fresco, giusto per dare quel profumo di freschezza. Per la stracciatella è molto semplice: in una bacinella mettiamo 140 grammi di uova, li lavoriamo con 30 grammi di formaggio di fossa stagionato, grattugiato molto fine, 20 grammi di pane secco grattugiato anche lui, 10 grammi di farina di grano tenero. Mescoliamo il tutto bene con un cucchiaio di legno o addirittura anche con una frusta. Poi cosa facciamo? In ultimo facciamo 2 decilitri di acqua di cottura dei lupini, li addizioniamo a 3 decilitri di acqua calda, facciamo bollire il tutto, li profumiamo con mezzo limone, mezzo buccia di limone grattugiata, oppure anche tagliando la buccia del limone, lasciando una parte bianca che dà un po' di amaro a questo brodo, che secondo me potrebbe essere anche molto interessante. E potremmo aggiungere poi un 6 decilitri di brodo di pesce o di verdura, quindi portiamo a bollore questi tre liquidi. Aggiungiamo a questo impasto la stracciatella, quindi quell'impasto di uova e formaggio lo aggiungiamo a questo brodo bollito, facciamo sobbollire leggermente per 4-5 minuti e teniamo da parte. Una volta che abbiamo messo i nostri lupini in 4 tazze da brodo diverse, aggiungiamo un pochettino di brodo e un po' di questa stracciatella strappata sopra questi lupini, lasciamo intiepidire, poi un velo di olio e un'altra grattugiata di buccia di limone. Beh, mi sembra molto interessante, così come è interessante il nostro Spazio News. Vai! Allora, chi è il padrone? Così i consumatori decidono cosa produrre e ovviamente cosa comprare. Sbarca in Italia la versione nostrana dell'iniziativa francese, che in 3 anni, 36 mesi, senza pubblicità, ha venduto 150 milioni di prodotti per 90 milioni di fatturato. La filosofia è molto semplice, cioè i consumatori dettano le regole, a tirare le fila è l'omonima società cooperativa di interesse collettivo con oltre 7.500 soci. Ovviamente c'è una collaborazione con le aziende che ha portato alla costruzione, alla fattura di 35 prodotti forniti da 9.000 imprese e acquistate da oltre 14 milioni di francesi e 12.000 negozi. E beh, insomma, questo è veramente un esempio di interazione fra chi produce, fra produttore e consumatore, quindi veramente si rischia di non creare appunto gli scarti, che sono quelle cose di cui noi diciamo sempre, che insomma per tutti il cibo fresco, per cui se ci si coordina nella produzione non si hanno scarti e si ha per tutti il cibo fresco, giusto? E per quanto riguarda la declinazione italiana di tutto questo, per definire le caratteristiche degli spaghetti, delle penne, dei fusilli, 3.558 poliziotti italiani che hanno risposto a un questionario online. Insomma, il tema è interessante, anche un po' basmediologico, sulla società basata sulla democrazia del web o comunque della partecipazione collettiva. Però insomma è comunque molto interessante. Il Lambrusco sta andando verso l'unione dei consorzi di tutela. Sapete che insomma il Lambrusco è una delle tante eccellenze, soprattutto dell'Emilia Romagna. È arrivato il primo parere favorevole, a settembre ci sarà la decisione finale. È un percorso lungo ma importante questo, che porterà alla nascita di un unico grande consorzio fra Modena e Reggio Emilia. Sono molto contento di sì, questo. Sono molto contento perché non è stato valutato, fosse stato fatto da qualcun altro, dai nostri cugini, avrebbe avuto un grande successo tempo fa. Ci siamo arrivati adesso e ne sono molto felice, perché voglio dire, il Beaujolais, che è aperto la prima settimana di novembre in tutto il mondo come festa mondiale, voglio dire, il Lambrusco ha un appeal, ha un qualcosa in più. Ma da poi, dire poi come posso gusto. Dire, non voglio lanciarmi in discorsi quasi diciamo filosofico-politici, però mi fa molto piacere sapere che c'è il consorzio tutela del Lambrusco di Modena che ha aderito assieme a quello reggiano, quello dei Colli Scandiano, quelli del Reno Doc, cioè ognuno chiaramente ha il suo prodotto, ha la sua specificità, ma si sono messi insieme perché l'unione fa la forza, mai come in questo momento, e quindi nasce il consorzio tutela Lambrusco e noi tifiamo ovviamente per questo e per tutte le altre eccellenze italiane. E poi l'enoturismo, visto che parliamo di vino, è il turismo della ripartenza, ce ne parla Francesco Moneta e insomma mai come in Italia, no? Mai come in Italia, the round table, mai come in Italia il vino e più in generale anche il cibo racconta il territorio, diventa un'occasione di cultura, di divertimento, di benessere. Ciao Francesco. Ciao, buongiorno a tutti. Avete parlato di Lambrusco e quindi è abbastanza naturale poi parlare anche di enoturismo. Penso che sia interessante far sapere che l'enoturismo è la forma di turismo che a livello internazionale, oltre che in Italia, è cresciuta più che altre forme di turismo, per così dire, convenzionale, quindi il turismo per mare piuttosto che per cultura, negli ultimi anni. Questo grazie anche al traino dei cosiddetti millennials, della generazione Z, ovvero delle generazioni più giovani che, come sappiamo, vorrebbero avere dalla loro esperienza di viaggio qualcosa di più articolato, di non monotematico, come si dice appunto, multisensoriale e multidisciplinare. E quindi l'altra notizia penso che sia, che ci può anche rendere orgogliosi, è che l'Italia è considerata dal World Food Travel Monitor, una ricerca americana, il paese più desiderato dagli enoturisti di tutto il mondo. Quindi quando un tedesco, un giapponese, un americano pensano dove andiamo fuori dal nostro paese per vivere un'esperienza, per vino e per cibo, pensano all'Italia. E infatti quando poi noi abbiamo lanciato questa piattaforma Nuovo Enoturismo, perché l'anno scorso finalmente il Ministero dell'Agricoltura ha decretato per legge la possibilità dei produttori di vino di fare anche appunto accoglienza. Prima non si poteva, c'erano forme creative, come dire, dal punto di vista burocratico e formale, che come sappiamo non potevano reggere ancora a lungo. Quindi oggi si può fare enoturismo e noi abbiamo fatto una sessione di decalogo, delle indicazioni precise, delle raccomandazioni, e poi ci siamo trovati nei primi mesi di quest'anno a fare i conti appunto con il cosiddetto turismo della ripartenza, perché è un turismo di prossimità, quindi appunto come dicevate voi, meglio stare vicini per motivazioni diverse, e bene o male dalla Sicilia al Trentino ognuno ha a portata di un'ora e mezza una vigna, qualcuno andare a visitare, una cantina da andare, diciamo, andare a frequentare. Okay. Poi c'è l'aspetto economicamente, anche l'aspetto economico non è di poco conto, con qualche decina di euro si può fare un'esperienza in una cantina anche piuttosto interessante. Grazie a Francesco. Grazie, ci Francesco. Fermiamo tra poco, altre due ricette, S.S. Soldani, Licia Granello, tra poco. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, SOS Soldani, qualche minuto fa parlavamo con Moreno Cedroni della magia del pesce e di come cucinarlo. Esatto. E proprio a fagiolo, anzi a triglia, mi capita Vedo che sei. Io mi preoccupo perché qui c'ho un futuro collega che mi porterà via al posto di lavoro. Perché avrei mai pensato a questa finezza che ti rimanesse impressa da Moreno. Allora, che non è poco, non è da poco. Allora, c'è un piatto di triglia molto semplice. Vai. Gratinata con un po' di prosciutto e datteri, quindi una cosa molto semplice, però come ho descritto nella ricetta che leggerete su cosa, Pier, questa ricetta? Diciamolo. Beh, dai, diciamolo su Mangia come parli, il nostro libro. Good Morning Italia, ok, perfetto. Allora, è molto facile. Allora, noi prendiamo 4 fette da 10 grammi l'una più o meno di prosciutto crudo, le stendiamo su una carta da forno, le mettiamo in forno a 65-70 gradi, le facciamo essiccare, le leviamo dal forno, le frulliamo per ottenere una polvere di prosciutto. Addizioniamo a questa polvere di prosciutto una quarantina di grammi di briciole di pane tostate in padella con un velo di burro, per cui abbiamo questo sentore di prosciutto secco e di pane molto crunchy, molto gradevole. Se volete possiamo aggiungere anche una grattugiata di buccia di limone proprio in ultimo. Poi prendiamo le nostre triglie che abbiamo squamato, sfilettato, pulito per bene, adagiate anch'esse su un foglio di carta da forno e in una placca, le copriamo totalmente con questa panure, in gergo si chiama di pane, panure, gergo escoffier, insomma, sì, cucina escoffier classica. Quindi questo croccante di pane e prosciutto lo adagiamo totalmente sui filetti di triglia e qui subentra la tecnica, per cui accendiamo il nostro grill del forno o della nostra salamandra, anche questa è un altro apparecchio delle grandi cucine, quindi un grill. Lo mettiamo sotto al grill e facciamo molta attenzione di non farlo bruciare, di non far seccare la triglia, per cui, come diceva Moreno, facciamo attenzione a non stracuocere il pesce, perché tu sai, il filetto di triglia è molto delicato, poi è fine, si rischia poi di servire un pesce stopposo. Allora lo lasciamo 3-4 minuti giusto per far dorare ancora di più il pane, per far cuocere la triglia, e poi serviamo con cosa? Con dei piccoli datteri non di mare ma datteri frutto che danno la dolcezza, tagliati a piccoli cubetti. Poi se volessimo proprio in ultimo, e se ce l'avessimo in cucina, un goccio, ma un tocco leggero leggero di colatura d'alici, che dà appena il piccante, il dolce, il croccante, la sapidità del pesce triglia. Beh, mi sembra molto molto interessante. Ho mangiato l'altra sera le triglie, devo dire, sono un po' complesse, perché sono un po' spinose, ma sono veramente difatti una delle cose peggiori che ho fatto io nelle mie cucine, quando dovevi sfilettare, squamare le triglie, lo so. Questo attrezzo, questa pinza particolare per levarle tutte, che insomma. Però mi piace la triglia, è un pesce un po' proletario, un po' la barbu. Io direi che la triglia più buona, secondo me, e meno intensa, è quella da scoglio, quella un po' più delicata e non da fondo, diciamo questa piccola particolarità. Bene, bene, oggi andiamo deep nel tema del pesce e del mare. Abbiamo Licia Granello, firma culinaria, sportiva, scrittrice, firma di Repubblica, ma insomma leggenda assoluta, fra l'altro insomma il passaggio dallo sport alla gastronomia, io non so se ci sia un passaggio, perché sono due dei grandi piaceri della vita, quindi poi alla fine forse sono più le aree, Licia, di comunanza che quelle di contraddizione fra queste due cose, no? Ciao Licia. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno Davide, buongiorno Pierluigi. Diciamo che il vero guaio è che tutti gli italiani sono grandi gastronomi o si considerano tali, e grandi mister, e i tecnici di calcio o si considerano tali, per cui se tu fai il giornalista economico nessuno ti contesta o sei specializzato in politica estera, ma se scrivi di calcio e di cucina, ciao! Sono d'accordo, sono d'accordo, ma ti nomino proprio sindacalista del sindacato giornalisti sportivi, devo dire, sulla cucina un po' meno, anche se ogni tanto, c'è la discussione, l'aglio, la cipolla, lo scalogno, e la ricetta si fa così, no, si fa così, e diciamo nel calcio ci si avvelena un po' di più, però hai perfettamente ragione, ed è uno dei motivi che secondo me rendono anche poi il grande onore a questi settori, perché insomma parlare di una cosa di cui tutti sanno e di cui tutti leggono e di cui tutti hanno un'opinione e comunque ha una sua complessità, no? Perché esiste un rapporto col pubblico. Ma com'è stata la tua svolta? Ho letto che sei sempre stata una grande appassionata di buon cibo, di buon vino, che sei nata di 4 kg, lo possiamo dire, ti fa onore questa cosa. Il curioso critico del New York Times, che si chiama Frank Bruni, che ha scritto la sua autobiografia, e l'ha intitolata Bone Round, nato tondo. Esatto. Ecco, io sono nata tonda. Ah, io pure. Quindi, sì. Per cui il primo libro che ho scritto, che è dedicato alla stagionalità degli ingredienti, ma i fragole a dicembre, l'ho dedicato a mio padre, che mi ha insegnato la differenza tra il parmigiano reggiano e il conto in banca. Ecco, San Daniele poi... Possiamo non avere un soldo in banca, ma in questa casa entrano solo parmigiano reggiano, prosciutto crudo di San Daniele, l'olio extravergine arrivava dai nonni, da parte di mia madre, che sono di Radden Chianti, e il vino arrivava dalle parti di mio padre, che era di Treviso, e quindi Merlot e Cabernet. Quando io... Senti, Licia, il cambiamento della cucina, tu insomma allieva di Gianni Brera e Gianni Mura, e quindi grandi personaggi, il cambiamento della cucina di quegli anni a quella che è arrivata oggi, a come è arrivata oggi la cucina, con un tuo pensiero mi piaceva sentire. Ma sicuramente io sono passata dalla cucina tradizionale, che era quella chiamava Gianni Brera quando si andava in trasferta in giro per l'Italia o per il mondo, a quella della nouvelle cuisine. Io mi ricordo che appena approdata a Milano nell'86, uno dei primi posti dove mi ha portato Gianni Mura è stato Bonvesin della Riva, mi ricordo, da qualche... certo. E quindi, come dire, ho vissuto tutte queste tappe, che sono state secondo me tappe di cultura e di consapevolezza per la cucina italiana, proprio di presa di consapevolezza, e credo che adesso siamo entrati in una fase ancora nuova, secondo me resa ondivaga dal lockdown e da questa chiusura forzata degli ultimi mesi, che ha un po' riportato alla cucina di conforto, no? Il cosiddetto comfort food, per cui mi raccontano gli amici ristoratori che vanno molto i piatti, come sempre nei momenti di crisi, che confortano, e meno quelli di sperimentazione. Però credo che ci sia una nuova fase comunque di cucina essenziale, meno di bellezza, meno food porn, diciamo, sì, ma più di sostanza, ecco. No? Grazie Alicia Granello, grazie davvero. SOS Oldani, vai. SOS Oldani. Vincenzo da Messina, vai. Ciao chef, oggi ho preparato un couscous con gamberetti e verdure grigliate. Ho versato sul couscous acqua bollente salata e un cucchiaio d'olio come da ricetta. Alla fine risultava tutto molto secco. Cosa ho sbagliato? Ha sbagliato che evidentemente non l'ha fatto riposare una volta che ha aggiunto l'acqua sul couscous, non l'ha fatto riposare abbastanza, per cui in teoria quando versi l'acqua copri, lasci almeno una ventina di minuti, il couscous assorbe, poi si sgrana ed è pronto. Rossella da San Felice. Ciao chef, io il mais lo uso praticamente solo nelle insalate, mi suggerisci un altro modo per usarlo? Una cosa semplice, azzarderei un dolce, prenderei il mais lo scolerei, perché immagino che nell'insalata lei metta quello in scatola, per cui scolato per bene, poi frullato con l'aggiunta di un po' di ricotta, un po' di, se vogliamo, cannella e un po' di zucchero, e poi lo servirei un po' come dolce. Erika dalla Chiavella. Erika. Buongiorno chef, ma il lievito si può congelare? E una volta scongelato, dopo quanto lo si può utilizzare? Lievito di birra, credo di sì, credo si possa, io non l'ho mai fatto, credo si possa congelare, e poi bisogna fare attenzione, perché bisogna farlo decongelare mettendolo prima in frigorifero a tipo 5-6 gradi, poi utilizzarlo sgranandolo e diluendolo con acqua e farina. Gnocchi dolci e acqua di mandorla, hai circa 20 secondi. È una cosa facile. Dobbiamo farlo o la improvvisiamo? Vai, improvvisiamola. 2 decilitri di acqua di mandorla. Abbiamo poco tempo. Raccontiamo l'acqua di mandorla. Allora, lasciamo a parte la ricetta. Quando diciamo latte di mandorla, erroneamente è l'acqua di mandorla. Allora, per fare una buona acqua di mandorla, dal quale poi deriva la nostra ricetta, che troveranno sul nostro libro, oppure che deriva anche il sorbetto o il gelato. Facciamo mezzo chilo di farina di mandorla bianca, ok? Facciamo bollire a parte 4 decilitri di acqua zuccherata appena appena, per cui 50 grammi di zucchero e magari mezza stecca di vaniglia. Una volta fatta bollire questa, la aggiungiamo alla nostra farina di mandorla. La lasciamo riposare per 4 ore, dopodiché la mettiamo su di un setaccio con un torcione. dove lasciamo scolare e da lì otterremo la nostra, il nostro latte barra acqua di mandorla. Questa acqua di mandorla poi la puoi utilizzare da mantecare oppure anche da fare salse per il pesce o emulsioni tipo acqua di mandorla, olio d'oliva, un goccio d'aceto e un goccio di succo di limone. Meraviglia, sentiamo alla prossima campagna. Ciao chef, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.